9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno caro ascoltatore, buon mercoledì 17. Essendo questo il giorno e noi non essendo molto superstiziosi, io per esempio oggi sono vestito di viola, però abbiamo deciso di dedicarlo a uno dei classici a cui questa radio è giusto che si dedichi, e soprattutto il sottoscritto intende dedicarsi con una particolare dedizione, perché oggi parliamo di tasse. Non ne parliamo dal punto di vista del mantra che viene ripetuto pressoché costantemente e che per carità è giusto, la lotta agli evasori. Per quello, diciamo, vi rimando al resto della letteratura e del giornalismo dominante, c'è solo l'imbarazzo della scelta, e non pensino naturalmente i malpensanti che io sono a difesa degli evasori, ma penso che sia almeno altrettanto, sottolineo, almeno altrettanto per voi, per me di più, importante battersi per la difesa di un fondamento che costituisce uno dei piloni, dei pilastri di uno Stato liberale. Il contribuente ha un diritto naturale che si estrinseca nella sua libertà, e la sua libertà nell'aderire naturalmente all'ordinamento, anche il più prescrittivamente talvolta infame come quello italiano, non solo per aliquota progressiva ma per confusione delle norme, deve essere posto in condizione, almeno nel contenzioso, almeno nel procedimento tributario, almeno di fronte alle sentenze, di potersi difendere secondo i principi del nostro ordinamento, cioè quelli ispirati in teoria a una parità nel contenzioso. Ecco, questo per esempio nel nostro paese non capita, quindi oggi dedichiamo la puntata a una serie di fiori, per così dire, di fiori non di quelli particolarmente di cui andare fieri, che negli ultimi tempi hanno attirato la mia attenzione, l'attenzione di molti imprenditori, ascoltatori che si sono fatti vivi. Ne abbiamo scelti un paio per fargli parlare dei loro casi. E di che cosa parliamo? Parliamo per esempio di una recente sentenza della Cassazione, tanto per dirne una, è una sentenza della Cassazione che dice che il contribuente deve integrare le lacune delle norme tributarie. Io tra poco vi presento un ospite che ce l'ha segnalata. E in che senso deve integrare le lacune delle norme tributarie? Perché tra più soluzioni, se non è chiara qual è la fattispecie che si applica al cespite su cui deve è imputato a pagare, per così dire, lui, lo stesso imprenditore, dice la Cassazione, deve obbligatoriamente scegliersi la norma fiscale che costa di più, perché la Cassazione dice che è un preciso obbligo dell'imprenditore pagare le tasse il più possibile, e sarebbe imposto dalla Costituzione. Questo lo stabilisce la Cassazione in una sentenza recente. Ne vogliamo prendere un'altra? C'è una sentenza della Cassazione che ho visto commentata qualche giorno fa, che a differenza di quanto capitava in precedenza, in caso di mancati versamenti di IVA per fatture che magari non erano state incassate, e anche in presenza di segnalazioni del fatto all'Agenzia delle Entrate, mentre fino all'anno successivo di mancato versamento, in precedenza, in caso di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, scattava automaticamente una sanatoria per quello che riguarda il connesso eventuale reato penale, la Cassazione ha stabilito invece che no, adesso basta, adesso si va direttamente in galera, se voi non pagate IVA su fatture che non avete incassato, per essere chiari. Di che cosa vogliamo parlare ancora? Vogliamo parlare delle circolari delle Agenzie delle Entrate, che in teoria ribadiscono che nel contenzioso con l'agenzia non c'è l'infame inversione dell'onere della prova sulle spalle del contribuente, e delle sentenze della Corte di Cassazione invece puntualmente applicate a contenziosi che stabiliscono, affermano ribaldamente l'esatto contrario, per cui in concreto, se andate in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, il vostro avvocato, il vostro commercialista vi dicono: sì, certo, ci sono le circolari dell'Agenzia delle Entrate, però ti devo far notare che in questa e quest'altra sentenza della Cassazione si dice il contrario. Che cosa vogliamo fare? Ecco, vogliamo parlare dell'ecobonus del 55%, le detrazioni di spese per l'efficienza energetica, che era uno dei provvedimenti più attesi da decine e decine di migliaia di piccole imprese dell'intera filiera. Apprendiamo oggi sui giornali che verrà forse diluito in 10 anni addirittura. Oppure di cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare della ritenuta del 10% che è stata consentita all'atto dei bonifici a favore delle banche per tutte le spese che consentono detrazioni fiscali? Ecco, cioè io mi fermo a questo banale ma abbastanza allucinante per quello che mi riguarda, poiché ieri era giorno in cui si pagava il 16 e il 30 di questo mese, sono i due salassi per il contribuente autonomo, e quindi mi sono svenato ieri e ho pensato bene di dedicare a tutti coloro che si sono svenati insieme a me e si svenano poi il 30, e anche a tutti coloro però che hanno sostituto l'imposta e sono lavoratori dipendenti e ritengono che la cosa li intacchi meno, li tocchi meno, perché c'è solo la lotta agli evasori da fare, che forse è il caso di riflettere su questi fondamenti dello Stato liberale, della libertà personale, del fatto di essere cittadini e non sudditi che devono soggiacere a quello che dice in una circolare Tizio e Caio dell'Agenzia delle Entrate e a quello che poi dice la Cassazione, talvolta pronunziandosi in maniera che a coloro che sanno di diritto tributario sembrano solo abnorme, ma di totale ignoranza, se posso dirlo, perché ricordo a tutti che il contenzioso tributario è una forma a metà tra il civile e il penale, in teoria è civile, nella parte sanzionatoria poi si va automaticamente sul penale, e questa particolare forma ibrida dovrebbe a maggior ragione vedere i cittadini, la giurisprudenza, il giure molto attento, perché quando si va sul penale fare l'inversione dell'onere della prova e stupidaggini come questa della Cassazione che prescrive che l'imprenditore deve applicarsi da solo, inventarsi da solo una norma per pagare di più, significano solo una cosa, che abbiamo uno Stato che ci tratta da sudditi e i sudditi si devono, secondo me, ribellare, si devono rivoltare, e se per farci star zitti ci si dice che siamo per gli evasori, secondo me chi accetta questa roba è sciocco, è stupido, accetta uno Stato corrotto e corruttore. E ho fatto la mia solita tirata, ma per capire adesso con gli ospiti invece come e perché entreremo meglio nel merito di queste vicende. Io vi presento innanzitutto, e ne sono molto felice, un ospite che è il vice direttore del giornale, che è Nicola Porro, e io sono molto lieto di averlo qui. A chiunque sia in ascolto è chiaro che il fatto di averlo qui significa che non c'è nessun equivoco di rapporto tra me, lui, la rete eccetera, ma soprattutto io sono felice perché Nicola Porro lo conosco da tanto tempo e metto la mano destra e sinistra ai miei piedi sul fatto che è un correttissimo giornalista, è un liberale a tutta pesa, e per quello che mi riguarda quello che conta è fare questo mestiere bene, e io sono convinto, da suo amico, e lo dichiaro per conflitto di interesse, che lo abbia sempre fatto così, e per questo lo ringrazio di essere qua dandogli un abbraccio. Grazie Nicola. Grazie a te Oscar. Poi abbiamo il professor Alberto Marcheselli, che insegna diritto tributario alla facoltà di giurisprudenza di Torino, ed è in particolare appunto l'accademico che ci ha segnalato questa bella sentenza della Cassazione per la quale lo Stato dice che l'imprenditore si deve applicare da solo una norma anche quando non c'è, e per favore facesse il favore di pagare di più, perché questo c'è scritto in Costituzione. Grazie professor Marcheselli. Grazie a lei, buongiorno. E poi abbiamo Davide Tasso, imprenditore, consigliere della CNA, che è quello che in particolare, diciamo, per conto mio mi dà le informazioni su questa bella norma del 10% di bonifici sulle spese per la detrazione. Buongiorno a Davide Tasso. Giannino, buongiorno ai suoi ospiti. Professor Marcheselli, ci dà qualche cenno un pochino più tecnico su questa sentenzella della Cassazione, dell'autocolmazione della lacuna normativa a carico dell'imprenditore? Ci provo. Intanto c'è da dire una cosa brutta, che la sentenza non è una sola, ma sono più. La cosa buona è che forse c'è già qualche elemento di ribellione all'interno della stessa giurisprudenza su questo orientamento, che però va combattuto, come ha detto lei, con il massimo rigore. E il punto di partenza del ragionamento è che curare la malattia è rappresentata dall'illusione fiscale, però la cura che è stata scelta è peggiore del male. Il punto di partenza lo ha individuato molto bene lei, è il principio di qualsiasi Stato, ma liberale, ma non solo liberale, cioè che gli obblighi dei cittadini nascono dalla legge. Cioè lei dice che siamo peggio addirittura anche delle tirannie autoritarie in materia fiscale. Ma certi versi, se dovessimo andare a seguire alla lettera certe massime, probabilmente raggiungeremo risultati che non sono mai stati raggiunti altrimenti, è un paradosso ma è così. Il discorso è questo, il punto di partenza è che lo Stato chiede e il cittadino paga, e direi che è ineccepibile. Si può poi discutere se il cittadino debba pagare, abbia la garanzia massima, cioè tutto ciò che è imponibile debba essere espressamente previsto analiticamente, come è nel diritto penale, perché nel diritto penale io, se il diritto penale regge ancora, sono punibile solo per i fatti espressamente commessi come reato, o se la garanzia può essere un pochino inferiore. Questo è un problema ideologico. Molti paesi fanno una scelta leggermente inferiore, anche la comunità europea, dicono vabbè, ma se il contribuente abusa della legge è giusto disconoscere il suo abuso. Ma attenzione che abusare della legge significa rispettarne lo spirito, ma aggirarne, rispettarne la lettera, ma aggirarne lo spirito. Ora, cosa è successo in Italia, per farla breve? Che ci troviamo di fronte a una legislazione che non è per nulla chiara. Se chiunque di noi abbia confidenza con le norme tributarie, anche solo del testo unico, sa che una singola norma equivale a un'intera legge dell'Ottocento, una singola norma sembra l'elenco telefonico di Abbiate Grasso. E quindi capire qual è lo spirito delle norme è molto difficile. Anche perché, la interrompo, in tema proprio di abuso di diritto, le sezioni unite della Cassazione, proprio in materia tributaria, hanno, diciamo, accumulato un'enorme congerie di giurisprudenza nella quale l'interpretazione dell'abuso di diritto, non voglio dire che sia unilateralmente a favore dello Stato, ma qua ci sono intere materie, per esempio quello sul dividend washing, su come si pagano le imposte su partecipate quando sono a cavallo tra il nostro paese e fuori, eccetera, eccetera, in cui l'interpretazione è pressoché unilaterale, cioè l'abuso di diritto da parte dello Stato nei confronti del cittadino nel procedimento e nel contenzioso tributario viene praticamente sempre disconosciuto dalle sezioni unite della Cassazione, e questa è una cosa che io trovo abbastanza terrificante. Corretto. E allora, nella difficoltà di individuare la razza delle norme tributarie c'è stata una transustanziazione del sistema, cioè si è passati a dire vabbè, l'abuso c'è tutte le volte che tu tra più scelte fai la scelta che ti costa di meno. Io le posso fare un esempio che non è mio di invenzione, ma mi è piaciuto molto ed è molto chiaro. Supponiamo, invece che parlare di imposte, che forse tecnicamente non è facile percepirlo, ma parliamo del pedaggio autostradale. Pensiamo al pedaggio autostradale, e una cosa è dire, se c'è una norma che dice che le ambulanze non pagano il pedaggio, probabilmente sarebbe abusivo quell'imprenditore che caricasse di mattoni l'ambulanza e pretendesse di non pagare il pedaggio perché vuol portare i mattoni per fare, certo, i suoi lavori, in questo, e qui sarebbe pacifico. Ma l'orientamento che io critico e che molti criticano, io sono solo uno dei, e non certo dei maggiori che lo criticano, equivale a dire una cosa ben diversa, cioè equivale a dire che se io non prendo l'autostrada e prendo una strada statale, mi si viene a chiedere, ma perché non hai preso certo l'autostrada? Tu avresti potuto prendere l'autostrada, è non l'hai chiaro, presa, ma ti faccio pagare il pedaggio lo stesso. E certo, perché siccome noi abbiamo molto bisogno di soldi, perché siamo affamati, se non ce li dai vieni meno a un preciso precetto costituzionale. Ma in che cosa consisterebbe questo precetto costituzionale che si è obbligati a pagare di più? Perché? Ma diciamo, la base c'è, la base è che l'attività di impresa deve essere esercitata in conformità all'utilità sociale, ma una cosa è esercitare l'attività di impresa in conformità all'utilità sociale, nel senso di non inquinare, non maltrattare gli operai, ma altro conto è che io devo pagare il più possibile di tasse per adempiere a questa cosa della Costituzione. L'utilità sociale non è certamente quella di dire mi scelgo la legge peggiore. Eppure, cioè, la legge. Eppure, per quanto possa risultare non molto noto a chi è abituato a pensare che esista solo una questione di evasione nel nostro paese, questo ha scritto testualmente la Corte di Cassazione. E la Corte di Cassazione, mi rivolgo adesso a Nicola Porro, malgrado le tante ripetute circostanze dell'Agenzia delle Entrate, che naturalmente poi noi dobbiamo pubblicare, il Sole 24 Ore deve pubblicare per esteso, che affermano naturalmente che non è più vero che nel procedimento tributario c'è l'inversione dell'onere della prova, però io, per non annoiarvi, ve ne cito solo alcune sentenze della Cassazione di quest'anno, l'ordinanza 4313 del 2010 per esempio, poi tra 2009 e 2010 ho trovato solo 6 sentenze delle sezioni riunite, 26635, 26636, 637, 638, queste sono del 2009 delle sezioni riunite, tutte le volte la Cassazione continuano a confermare, per esempio in materia di studi di settore, che l'onere probatorio spetta al contribuente. Allora, come si fa, Nicola Porro, a vivere in un paese in cui l'Agenzia delle Entrate ci tiene buoni a noi che ci battiamo per dire ma com'è possibile fare l'inversione dell'onere della prova, mica siamo nel Medioevo, e poi la Cassazione ogni volta dice l'esatto contrario. Oscar, quella sentenza della Cassazione del 2010, in contraddizione con altre 10-15 sentenze della Cassazione sugli studi di settore, perché bisogna anche mettersi nella testa che c'è un pasticcio anche tra le diverse sentenze della Cassazione, perché l'onere della prova ribaltato sugli studi di settore è uno shock giudiziario incredibile sugli studi di settore, che peraltro saranno uno strumento che verrà più o meno abbandonato rispetto agli accertamenti sintetici. Cioè, per essere molto semplici, oggi siamo destinati ad avere una sorta di studi di settore noi stessi individui, cioè si dice, visto che voi spendete tot con redditometro. Il famoso redditometro, e anche sul redditometro c'è l'inversione dell'onere della prova, questo per legge sostanzialmente, non per una sentenza della Cassazione. Siamo noi a dover dimostrare per quale motivo abbiamo speso tot e non abbiamo prodotto un reddito che avrebbe giustificato questa spesa. C'è da dire che le nuove normative permettono, diciamo, un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, anzi obbligano l'Agenzia delle Entrate a sentire le nostre ragioni. Però il principio fondamentale è quello che si diceva prima, e cioè che il contribuente è considerato sempre e comunque un po' colpevole. Non è un termine giuridico quello che sto usando, è un termine evidentemente sostanziale. Cioè, il contribuente alla fine qualcosa da nascondere c'ha, e quindi si cerca sempre di metterlo nelle condizioni di chiudere la partita col fisco, che vuol dire avvocati, commercialisti e commissioni tributarie. Arrivare in Cassazione per un contribuente è un costo pazzesco, soprattutto se le cifre sono ridotte, vuol dire metterlo nelle condizioni di chiudere la partita col fisco in maniera anticipata e a grande sconto, tutte norme previste dalle diverse manovre finanziarie, non ultima quella di quest'estate. Quello che semplicemente si vuol dire è che alla fine ci troviamo nel paradosso che le persone più per bene, o le persone che comunque hanno una posizione fiscale già aperta con l'Agenzia delle Entrate e quindi con le casse del Tesoro, si vedono costrette a pagare un sovrapprezzo rispetto al dovuto per togliersi dalle scatole questo rischio di avere anni e anni di contenzioso col fisco, contenzioso che peraltro, secondo le ultime norme, devono liquidare subito, e poi si vedrà alla fine del procedimento se avevano ragione o meno. Ecco, questa è schiavitù fiscale. Non entriamo neanche nel merito dell'aliquota, della progressività, dell'ingiustizia. Qua entriamo nel merito del fatto che chi viene pizzicato, anche con qualche ragione, si trova con le spalle al muro e ha l'obbligo personale di dover dimostrare la propria innocenza. Ed è una cosa che si diceva prima, è una cosa da paese totalmente incivile. Certo, poi dopo, se si scovano 10, 15, 100 evasori fiscali totali, uno può dire, beh, è giustificata questa norma, però è un po' lo stesso principio del diritto penale, del codice di procedura penale. Preferiamo avere un innocente fuori dal carcere, 10 innocenti fuori dal carcere, o preferiamo averne un colpevole fuori dal carcere? Mi sono espresso male, ma il concetto è banale. Cioè, rischiamo di mettere in manette persone perché abbiamo un sistema penale talmente poco garantista, non è il nostro caso però abbastanza, per cui si spara nel mucchio. Non è accettabile nel settore fiscale una cosa di questo tipo, perché quindi oltre all'onere fiscale si dà al contribuente questo obbligo di doversi giustificare delle proprie posizioni. Tra l'altro questo è via più sgradevole per quelle imprese che in realtà poi vivono borderline nei loro conti, non già perché hanno una posizione con fisco allegra, ma perché sono in una situazione di crisi economica per cui tutto debbono fare tranne che avere una nuova preoccupazione, per cui lo Stato non è loro alleato, ma soprattutto attraverso il fisco diventa per loro un ulteriore nemico con cui combattere. Insomma, ma, è una cosa. Ti prendo alla lettera, perché in questo caso bisogna dichiarare il proprio conflitto di interesse, cioè il caso proprio caso personale. Io, per esempio, sono in una condizione per la quale devo dell'IVA su delle fatture non pagate. L'ho dichiarato, naturalmente c'è aperto uno scambio di cose di fronte alla sentenza della Cassazione che inopinatamente in precedenza si procedeva a un indulto, nel senso che non c'erano richieste diverse da queste, quando, ripeto, erano mancati versamenti per fatture non incassate, quando tutto era alla luce del sole. Non sto parlando quindi di cose non date allo Stato senza dirlo, ma di fronte a una sentenza che dice che se io lo faccio oltre i 12 mesi del dovuto, vado in carcere. Io francamente non so che cosa dire. Cioè, lo Stato mi obbliga a pagare su robe che io non ho neanche incassato la fattura. Come, che senso ha? Per me è una roba folle un paese di questo tipo. Io credo che sentenze di questo tipo meriterebbero delle proteste, non solo come quelle che stiamo facendo qua illustrandole, come le si può fare illustrandole, poi sono cose tecniche, sono aride. Queste sono materie sulle quali secondo me è giustificato dare segnali ai contribuenti, ai cittadini, dicendo svegliatevi e protestate in maniera seria, perché ne va della vostra libertà, esistenza in vita delle imprese, dei vostri redditi personali, dei vostri figli. Nel mio caso è così, quindi se è così per me che sono un povero fesso, figuriamoci per quanti altri. Pubblicità. Però se l'acqua fa questo, l'erario ti depura abbastanza pure lui, diciamoci la verità. Allora, abbiamo visto che nell'accertamento sintetico, che è quello che praticamente ci aspetta come nuova frontiera dello stato diffidente della maniera in cui noi adempiamo i nostri obblighi fiscali con il redditometro, sarà la presunzione ancora una volta naturalmente a fare la parte del leone nell'equilibrio, diciamo così, del rapporto tra contribuente e Stato. Passiamo in rassegna ancora due cose che non abbiamo ancora esaminato in questa cosa, volo d'uccello sull'horror fiscale. Io innanzitutto voglio ricordare che continuo a giudicare totalmente insoddisfacente la risposta che solo da parte fiscale si poteva fare a ciò che ha colpito il Veneto, Vicenza, Padova, Treviso, migliaia di imprese. A differenza di quanto avvenuto altre volte, la sospensione degli obblighi fiscali o quantomeno la loro rateizzazione non è automatica, come sapete. Si è proceduto a questa singolare decisione di dare al commissario, quindi al presidente Regione Zaia, il compito di fare la ricognizione impresa per impresa entro 30 giorni di come sono le condizioni, e poi l'Agenzia delle Entrate dovrà pronunciarsi impresa per impresa. È una cosa mai vista, anche perché nel frattempo, come inevitabile, passeranno esattamente le due scadenze fiscali di questo mese, cioè il 16 e il 30, perché mai e poi mai questo iter sarà compiuto entro il 30. Questo significa chiedere a tutte quelle imprese colpite di continuare a pagare come se niente fosse. Io credo che questa sia una risposta ispirata non solo al cinismo dell'Agenzia delle Entrate, ma al fatto di ignorare che poi quelle imprese sono nel cuore profondo della manifattura italiana, non sono ferme solo loro e sono in ginocchio i loro proprietari, i loro dipendenti, eccetera. Ma significa dare un'altra botta, perché da quella parte di impresa manifatturiera viene il più della crescita potenziale a breve del nostro paese. Quindi mi pare un atteggiamento due volte vessatorio, due volte stupido. Non capisco perché sia stato preso, se non per un particolare pregiudizio verso il nord-est, visto che altrove, altrimenti, dall'Abruzzo a Piemonte si è fatto diversamente. Questa volta no. Non capisco perché. Me lo chiedo da cittadino, lo chiedo a tutti coloro che sono in ascolto. Abbiamo con noi comunque anche Claudio Miotto, che è presidente di Confartigianato del Veneto. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, io gli chiederei di partire nella sua riflessione anche da questo aspetto della questione. Che ne pensa di questa modalità con cui si è proceduto fiscalmente di fronte ai danni delle alluvioni del maltempo? Una modalità difficile da capire, anzi non la capiamo, è la cosa più semplice. Avevamo chiesto una moratoria, ripeto, non di non pagare, ma di pagare a uno scadenza dilazionale, praticamente fra sei mesi, con la dichiarativa che si farebbe nel 2011, perché lasciare nelle disponibilità delle imprese 4, 5, 10 mila euro, che ricordo che il 30 novembre è un acconto formale come termine, ma in realtà sostanzialmente un saldo, perché questo si paga tutto il reddito, per carità, niente da dire, però se questi soldi restassero in azienda sarebbe un autofinanziamento che sarebbero poi pagati quando l'azienda è ripartita. Non lo capiamo il perché sia così complesso poter avere questa opportunità, che in altre occasioni, come bene ha detto lei, è stato fatto. Inoltre noi abbiamo chiesto, e questo devo anche ammettere, dare una disponibilità da parte dell'Agenzia regionale su un altro filone che va in parallelo, di lavorare sugli studi di settore perché riescano a fotografare quello che è il mancato reddito che deriva da queste condizioni, che non si limita ai 5 giorni di acqua all'interno delle aziende, ma con problematiche in un contesto di subfornitura, che probabilmente qualcuno ha anche perso dei committenti, perché ovviamente non potendo dare risposta questo è avvenuto. non lo capiamo, non lo so. Noi l'abbiamo fatta la richiesta, l'abbiamo sostenuta, però questo meccanismo è troppo difficile da capire. Nicola Porro, secondo te c'è un pregiudizio che è scaltato nei confronti del Nord-Est? C'è, siccome l'Agenzia delle Entrate giustamente è alla ricerca del massimo obiettivo possibile incrementale, perché di lì vengono la copertura di molte risorse nella manovra di quest'anno come dell'anno prossimo, e lo sappiamo, adotta, per così dire, una sana diffidenza, come vogliamo dire, oppure questo elemento non c'è? E allora ti chiedo perché secondo te invece nel caso del Veneto si è proceduto così? Ma c'è una differenza nei confronti del Nord-Est sicuramente, perché non sono imprese di grandissime dimensioni, di grandissimo livello nazionale, di grandissima storia, diciamo, capitalistica italiana, e quindi nei loro confronti c'è un po' di pregiudizio. Il Nord-Est nella letteratura come possiamo dire, è la zona degli evasori, non è che si riesce questo pregiudizio a smontare nel giro di un anno, due anni, sono cose che si radicano fortemente, secondo me. Io ovviamente non condivido affatto questo pregiudizio, però c'è anche un altro elemento che però deve essere a parziale scusa dell'atteggiamento che oggi ha l'amministrazione finanziaria, anche se sono veri i casi dell'Abruzzo di cui hai citato tu prima, cioè che l'amministrazione finanziaria oggi ha veramente la necessità di portare a casa maggior gettito possibile, ha degli obiettivi, cerca di raggiungerli. Non so come dirti, Oscar, l'efficienza oggi della macchina finanziaria, della macchina del recupero fiscale è stata messa talmente bene a punto che si muovono con delle logiche, appunto, direi privatistiche. Tu ti rendi conto che quest'anno riusciranno a recuperare 10 miliardi di euro, ma recuperati, cioè cash che entrano nelle casse del tesoro, e i signori dell'Agenzia delle Entrate sono talmente seri, ovviamente la loro serietà può avere anche la contropartita di un utilizzo eccessivo dell'arma fiscale di cui abbiamo parlato fino ad ora, che non parlano più degli accertamenti come si faceva in passato, e cioè non dicono più in Italia probabilmente abbiamo aperto verbali per 30-40 miliardi di euro, ormai parlano di quello che gli entra in cassa, per darti l'idea di come loro sono rigorosissimi nel portare a casa il risultato. Però l'altra faccia della medaglia è che le armi che sono state date a loro per ultimo proprio dal ministro Tremonti sono talmente forti e che rischiano di far davvero male se le usano senza... Io temo che rischino anche di fare cadere parecchie imprese, soprattutto di fronte a danni, di fronte a fatture non incassate. Questo, io sto parlando sempre di situazioni tali che mi sembrano, insomma, no, come tali. E invece è un po' questa la cosa. Miotto, ma sull'eco bonus invece come la vede questo spalmarlo in 10 anni? Una battuta che... chiaro quello che ha detto Porro, non lo sto ribattendo su di lui, dire che il Veneto è una zona di evasore fiscale con gli studi di settore è ora di smetterla, perché gli studi di settore sono applicati e uno paga in base a quello che desume da tutto, pertanto è ora. Se poi ci sono evasori totali, noi non li difendiamo, perché quelli diventano concorrenza sleale, non sono certo né affiancati, e questo fuori dubbio. Certamente io credo, anch'io condivido, che l'Agenzia delle Entrate abbia fatto questo calcolo. Il Veneto è una zona dove si paga molto, non si può permettere, fra virgolette, di scendere sui livelli di... anche perché... Allora, essere un territorio che paga molto, primo, vuol dire non essere evasori fiscali, secondo vuol dire alla fine si è anche penalizzati, oltre a pagare. Anche perché nei criteri privatistici, per così dire, di cui parlava Nicola Porro dell'Agenzia delle Entrate, c'è anche quello che si fa carriera con in proporzione al massimo risultato che si porta a casa, che è un criterio un po' discutibile, ammettiamolo, perché era un po' come i vigili urbani che prendono la percentuale sulle multe, e non sono stati pochi i casi di abusi, per così dire. Le chiedevo, Miotto, su spalmare su 10 anni l'ecobonus, che dice? Meglio che niente. È meglio che niente. Certamente diventa poco incentivante. Oggi si ottengono i risultati in cambio di delle opportunità che si possono creare. Dare degli incentivi che alla fine non siano tali, diventa forse un enunciato e poco praticato. Ecco, io la penso come lei, credo che sia un contentino. Se bisogna spalmare in 10 anni, tanto vale. Io capisco che è difficile dire no grazie, lo dico io, voi non potete dirlo, però no. Mi sembra una sostanziale presa per però i fondelli. Però alla fine non produrrà quei risultati, esatto. Un po' come il piano casa che era enunciato. Esatto, esatto, bene, esatto. Poi è stato talmente allungato, anacquato. Sono completamente d'accordo con lei. Che non è più stato un piano casa e non ha prodotto i risultati. Sì. Aggiungo che per fortuna con l'Agenzia Regionale delle Entrate c'è un buon dialogo a livello di direzione e si riesce a portare l'attenzione. Certo, non si fa fatica a capire le norme quando vengono fatte o enunciate, poi nel pratico le aziende devono continuare a pagare nei momenti di difficoltà. Devo ricordare, e come sempre lo farò, la grande solidarietà che in questo momento abbiamo scoperto riscoperto e apprezzato sia dai vicini, sia nel nostro territorio, sia da altre categorie delle regioni limitrofe o lontane. Questo non dimentichiamo mai, questo grande valore fra la gente. Grazie Presidente, nel grazie nostro piccolo noi ci siamo dati da fare per dare più possibile voci a proprio alle richieste nei confronti dello Stato, fiscale eccetera eccetera, ma è nostro dovere di informazione, perché nei giorni immediatamente successivi effettivamente si faticava molto ad apprezzare la durezza di quello che era capitato. Allora Davide Tasso, altro capitoletto rapido, informiamo un secondo di come funziona questa bella trappoletta del 10% sui bonifici bancari, sulle spese che costituiscono detrazione, quindi crediti fiscali che si accumulano, che mettono alla fine le incolpevoli imprese che sono in tali condizioni di andare in un credito che poi non incasseranno mai. Com'è questa faccenda? Mi permette intanto di ringraziarla per la fotografia che avete fatto della situazione di 9 milioni di lavoratori italiani che vivono nell'angoscia di quello che voi avete chiaramente espresso all'inizio della trasmissione. Noi ci troviamo di fronte a una cosa che secondo me è dire ridicolo e dir poco se non fosse drammatica. Praticamente a fronte di un lavoro effettuato con emissione di fattura regolare, con incasso tramite bonifico bancario, per cui è assolutamente impossibile evadere da questo punto di vista l'accertamento, il pagamento delle tasse e tutto, viene operata una ritenuta del 10% sul totale della fattura che viene addebitato alle imprese, il che rappresenta una cosa che è addirittura incostituzionale dal mio punto di vista, perché si preleva molto più di quanto si guadagna. Secondo me io lo definirei un furto, ecco, esatto. Proprio detta andando per le spicce. No, tanto per essere chiari, per far capire esattamente di che cosa stiamo parlando, le faccio un esempio banale che i numeri a volte esprimono più delle parole. Un'impresa che fa un fatturato di circa 650 milioni di euro in questo settore, secondo gli studi di settore, per cui secondo un dato certo, dovrebbe ricavare un utile di circa 60.000 euro per essere a posto con il fisco. Su questi 60.000 euro ipotizziamo l'aliquota peggiore possibile nello Stato italiano, il 50% di tasse da pagare, dovrebbe pagare nell'anno 30.000 euro di tasse. Se il fatturato è il 100% fatto in regime di recupero edilizio o di risparmio energetico, il tapino si trova ad aver già pagato in anticipo praticamente 60.000 euro di tasse invece dei 30.000 che avrebbe dovuto pagare secondo legge, per non essere un evasore fiscale, intendiamoci, non vogliamo essere evasori fiscali. Su un fatturato di, lo ridica un po' però il fatturato che ha detto all'inizio, perché secondo me si è un po'... 600.000 euro. Ah, ecco, perché lei ha detto 650 milioni e quindi capisce che molti alla casa hanno detto euro. Oh, ma di che tasse stai parlando su 650 milioni di fatturato? 650.000 euro di fatturato, che è un fatturato medio di tutte le piccole imprese che operano in questo settore. Cioè si è preso un esempio che può calzare nel 90% delle aziende. Dovrebbe pagare circa 30.000 euro di tasse all'anno, ipotizzando il 50% di tassazione, cioè l'aliquota più alta. Certo. Invece di 30.000 se ne trova a pagare 60.000. Oltretutto se li trova a pagare in anticipo, perché li paga esattamente nel momento in cui prende i soldi, per cui in anticipo, con la possibilità di richiedere questo credito, se facciamo un'ipotesi, 1 gennaio 2011 potrà dimostrare di aver diritto a questo credito nel giugno del 2012, cioè 18 mesi dopo. Come fa un'impresa a finanziare lo Stato in queste condizioni? La beffa è che l'hanno chiamata lotta all'evasione fiscale. Sì, perché il principio è: siccome nel settore c'è evasione fiscale, noi tassiamo chi emette le fatture. Capito? Io non so se chi è a casa ha capito bene, cioè si combatte esattamente la pratica del pieno rispetto di qualunque passaggio dalla tracciabilità alla fatturazione, che a parole viene richiesto dallo Stato come la condizione per entrare nella civiltà eccetera eccetera, ed è su questo che cade la mannaia di un finanziamento aggiuntivo di cassa che a quel punto l'imprenditore si trova a dover garantire allo Stato, che naturalmente ha bisogno delle sue esigenze, però delle esigenze di chi lavora, fatica e dà lavoro, se ne fotte, perdonatemi. L'informazione stradale. Sentiamo rapidamente qualche telefonata, che cosa abbiamo vellicato nel pubblico in ascolto con questa cosa un po' anti-tradizione di battersi contro lo Stato che ci conculca i diritti in materia fiscale, invece che solo ricordando che naturalmente bisogna fare evasione fiscale. Tra l'altro segnalo ai nostri ascoltatori che alle 12 viene riequilibrata questa improntitudine di Giannino antistatualista, antifiscalista, perché domani con Salvadanaio, anzi no, alle 12 di oggi, scusatemi, Deborah Rosciani illustrerà le nuove tecniche per sanare gli evasori con questa operazione Perseo lanciata dalla Guardia di Finanza, che è soltanto uno degli ultimi strumenti messo a punto per scovare quei cittadini che, pur avendo dichiarato redditi irrisori o peggio pari a zero, mostrano un tenore di vita e capacità di spesa incompatibili con la propria posizione fiscale. Come vedete, Deborah è bravissima, io gli lancio il programma. Detto questo, io la penso diversamente, non ci posso fare nulla. Sentiamo come la pensano Tiziano da Milano. Che pensa Tiziano? Sì, buongiorno a tutti e buongiorno ai suoi ospiti. Brevemente racconto la mia situazione fiscale, nel senso, io sono un dipendente che 2 anni fa ha deciso di aprire una nuova impresa individuale. Mi sono ritrovato esattamente dopo 3 anni con gli studi di settore a dover, entro il 31 di quest'anno, a dover chiudere la mia ditta, perché col reddito da dipendente che ho accumulato e con il magazzino che ho creato della mia impresa, mi trovo a dover pagare tasse che non riesco a sostenere. E tutto al più mi sono sentito dire, in maniera non diretta ma in modo informale, che avrei dovuto trovare un prestanome per poter mantenere in piedi la mia impresa. È assurdo, io questa cosa l'avevo messa per agevolare o creare un lavoro a mia moglie, questa idea di quella delle lamentele da... Però mi trovo costretto per le tasse a dover chiudere, perché col reddito che ho non posso sostenere, col magazzino creato di materiale, esatto, che è il minimo di base per, esatto, tenere in piedi un'impresa, mi vedo costretto a chiudere perché ho un tasso che raggiunge il 47,50 di tassazione, mi trovo costretto il 31 a chiudere. In teoria dovrei trovare un prestanome, però io purtroppo... Esatto, lei, il suo caso illustra precisamente che l'induzione di un ordinamento così pervasivo e inutilmente vessatorio è quello o di indurre al prestanome, cioè naturalmente a un meccanismo elusivo, oppure a chiudere o a scoraggiare l'offerta aggiuntiva di impresa e di occupazione, perché poi lei, crescendo, potrebbe un domani occupare altra gente, eccetera eccetera. Mi pare l'esempio, un ottimo esempio. Sentiamo Gianni da Brescia. Eccomi qua. Ecco, qual è la sua esperienza? Buongiorno, grazie dell'opportunità e saluti a tutti. Allora, la mia esperienza è quella di chi ha aperto un'azienda agricola e è stato colpito dagli studi di settore in un momento in cui raccogliere un quintale di grano mi costava 24 euro tra la semina, sì, aratura, eccetera, eccetera. Il mercato me lo pagava 13 euro, 14 euro. Allegri. Per cui, cos'è che ho fatto? Ho smesso di coltivare i terreni. Certo. Ho fatto interpello all'Agenzia delle Entrate dicendo: signori, guardate che i terreni non li sto coltivando per queste condizioni di mercato, venite a vedere che troverete le erbacce. Risposta? Nei terreni. Risposta: lei con questa estensione di terreno deve guadagnare 90.000 euro e ci deve dare 36.000 euro di tasse. E io ho chiuso l'azienda. E lei ha chiuso l'azienda. Ho chiuso l'azienda perché non vedevo la mia uscita. Ho capito. E anche già la cosa di Gianni ci fa riflettere su questo. Io adesso Umberto da Treviso lo devo solo salutare, perché noi sosteniamo la protesta di chi dal Veneto dice che si poteva e si doveva fare di più in termini di sospensione e di rateizzazione degli obblighi fiscali. Un'ultima considerazione ci tengo a farla con Nicola Porro. Io voglio sapere da lui quali sono le sue speranze. Parliamo un secondo anche dell'instabilità politica, dell'atmosfera che c'è intorno a noi. Su questa materia, il fisco, non è che andremo dall'indurimento di Tremonti al peggio che indurimento, a patrimoniali? Tu come la vedi su questo? Malissimo, malissimo, la vedo malissimo. In un documento che nessuno ha letto, che è quello, il piano nazionale si chiama PNR sostanzialmente, approvato dal Consiglio dei Ministri, c'è scritto che in materia fiscale, tra le varie riforme che si dovranno fare, si dovrà passare dalla tassazione dei redditi a quella della proprietà. Non so se ti è chiara la parola. Già. Sì. Però a pagina 22 di questo piano, che nessuno legge e che spero che nessuno metterà in opera, io temo che Tremonti abbia costruito una macchina efficientissima, una sorta di armata da guerra, no? L'Agenzia delle Entrate è forse la macchina burocratica più efficiente, sì, che abbiamo in questo momento. È così. quella macchina in mano a qualcuno che voglia veramente vessare era ideologica le imprese, le due imprese che abbiamo sentito prima, è una cosa che ti fa accapponare la pelle, Oscar, anche a te, perché siamo fatti della stessa pasta. Questi sono signori che si sono messi in proprio, hanno rischiato, volevano dar lavoro ad altre persone, lo Stato dovrebbe andare a casa loro e stringerti la mano, e questi ti chiamano, ma sai quante centinaia di persone si trovano uno Stato non alleato ma che ti rompe le scatole? E poi loro stanno parlando dell'aspetto fiscale, ovviamente tutto con l'amministrativo, stiamo dicendo la stessa cosa. Guarda Nicola, io ti devo interrompere perché è finito. Io ti ringrazio, perché chi la pensa come noi si troverà sempre a darsi una mano nei confronti degli eccessi di questo Stato. La conclusione di Nicola Porro è la conclusione che a me allarma molto. Anch'io vedo a breve termine la patrimoniale che vi arriva e ci arriva sulla testa, senza riforma di flat tax, senza che sia saltata la moneta, speriamo almeno, senza che abbiamo perso la guerra, la patrimoniale per fare nuove entrate, e hanno gli strumenti per farla. State attenti a quel giorno, perché io dico che quel giorno bisogna andare non alla piazza, forse pure fare qualcosa di peggio. Grazie a Nicola Porro e un abbraccio a lui, grazie a Alberto Marcheselli, grazie a Claudio Miotto, grazie a Davide Tasso, grazie a tutti coloro a cui siamo andati anche oggi per miracolo in onda. La linea al giornale radio, appuntamento a domani.